Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata, buon inizio settimana a tutti da Deborah Rosciani, benvenuti a Salva Danaio. Il codice della strada ha ormai abituato gli italiani a novità ed aggiornamenti molto frequenti. Il sistema che disciplina la circolazione stradale e tutti gli aspetti che ruotano intorno a questa realtà quotidiana che coinvolge tutti, automobilisti e non, è stato riformato un anno e mezzo fa, ma alcuni capitoli sono ancora in sospeso, mentre altri sono già stati programmati e presto entreranno in vigore. Altre novità sono invece già diventate operative ed è il caso di quelle freschissime di poche settimane che arrivano dal decreto legge sulle semplificazioni che, tra le altre cose, ha allentato ad esempio alcuni vincoli sulle visite mediche per la patente, sul controllo dei gas di scarico, il cosiddetto bollino blu. Noi oggi ne parliamo a Salva Danaio, faremo il punto sulle novità per ciclomotori e microcar. È infatti entrato a regime da poco anche il nuovo sistema di targatura, già operativo dal 2006 per i nuovi esemplari, e proprio per queste vetture dal 2013 è prevista l'istituzione di una nuova ed apposita patente. Parleremo anche della patente che va conquistata e meritata, ma anche rinnovata, e poi naturalmente delle tanto temute multe questa mattina. Tutto questo è peraltro oggetto di una nuova guida che esce oggi con il Sole 24 Ore, e chiaramente uno dei curatori non poteva che essere il nostro Maurizio Caprino, che saluto, che oggi eccezionalmente abbiamo qui in studio a Milano. Maurizio, ciao, benvenuto. Ecco qui, grazie, buongiorno. E poi naturalmente un altro ospite che non ci facciamo mai mancare è Silvio Scotti, dirigente superiore della Polizia Locale di Milano. Comandante Scotti, io ormai sa che la chiamerò per sempre comandante, buongiorno. Buongiorno, ben trovati. E poi una new entry per la nostra trasmissione, perché quando parliamo di queste tematiche che sono così articolate abbiamo bisogno del massimo supporto tecnico possibile. Oggi ne abbiamo approfittato per invitare anche Ferdinando Longobardo, commissario capo della Polizia Locale di Milano. Dottor Longobardo, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, se uno di questi aspetti che abbiamo toccato vi interessa approfondirlo, potete chiamarci all'800240024, ci potete scrivere al 349-238-6666 o all'indirizzo salvadaranio@radio24.it, ma ne potete approfittare anche se non avete aperte tutte queste caselle, potete approfittare anche di Facebook, perché come sapete da poco abbiamo istituito anche il profilo della nostra trasmissione sul social network e siamo a salvadanaio-radio24. Prima di partire con le novità sul codice della strada, andiamo invece a questa giornata di borsa che appare piuttosto incoraggiante, quantomeno sembra credere il mercato all'accordo che nel pomeriggio l'Eurogruppo potrebbe o dovrebbe spuntare appunto sulla risoluzione della crisi greca. In realtà uno step importante, non parliamo di una risoluzione definitiva, perché lì insomma per vedere la luce in fondo al tunnel greco occorreranno degli anni, ma in ogni caso oggi potrebbe essere la giornata decisiva per stanziare il nuovo pacchetto di aiuti che la Grecia ha necessità, di cui la Grecia ha necessità per far fronte a tutte le prossime scadenze finanziarie, soprattutto alla maxi obbligazione appunto in scadenza a fine marzo, 14 miliardi e mezzo di euro. Il pacchetto di aiuti è molto più corposo, però come sapete tra i 130 e i 145 miliardi di euro. Il mercato, vi dicevo, però appare positivo sulla prospettiva di un'approvazione oggi. Parigi sta salendo dello 0,83%, Francoforte guadagna l'1,41%, Londra più 0,82%, Milano più 1,10%. Su Milano oggi acquisti su STM più 5,78%, i titoli delle banche popolari oggi vanno bene: il Banco Popolare più 5,33%, la Banca Popolare di Milano più 3,80%, Diasorin più 3,33%, Fiat Industrial più 2,61%. Questo per fare l'elenco appunto dei titoli con i rialzi più vistosi, mentre Finmeccanica cede l'1,10%, è nel meno 0,9%, ha delle giornate difficili da un po', da quando settimana scorsa in particolar modo un bel gruppo di analisti ha bocciato il giudizio sul titolo e il target di prezzo. Pirelli meno 0,7%, Terna meno 0,14%. Oggi sono chiuse le contrattazioni a Wall Street, si festeggia il President Day, quindi vedremo domani anche la risposta del mercato americano alle novità che oggi arriveranno da Bruxelles. Peraltro il mercato americano sta viaggiando su livelli piuttosto interessanti, il Nasdaq è tornato su livelli che non vedeva dal 2000. L'euro sul dollaro a 1,3257, chiaramente non ci facciamo mancare lo spread, il differenziale di rendimento fra titoli italiani e titoli tedeschi sulla scadenza tendenza decennale, questa mattina risultava ancora in discesa sui 355,56 punti base. Questa è la giornata di borsa. Andiamo invece al tema del codice della strada. Intanto Maurizio Caprino, la guida di oggi funziona con le modalità di quasi tutte le guide pubblicate lunedì, un pool di esperti a disposizione dei lettori che vi stanno scrivendo. Su quali domande si stanno focalizzando in particolar modo? Devo dire c'è un po' di tutto, perché le novità non sono tantissime, ma riguardano molti campi, quindi sono abbastanza frammentate, quindi non direi che c'è una prevalenza. Forse qualche quesito in più riguardo la questione degli ultraottantenni, dei controlli per gli ultraottantenni, che già in passato avevamo visto essere argomento caldo. Per il resto, ecco, c'è anche qualche commento di approvazione o soprattutto disapprovazione di determinate novità, e insomma tutte cose abbastanza su cui siamo abbastanza abituati. Su che cosa commentano i lettori, appunto, in termini di approvazione e disapprovazione rispetto alle nuove misure? Adesso c'è quella che ha fatto molto clamore, ne parlavamo prima anche a microfoni spenti, delle novità arrivate per i famosi autisti di autobus, che hanno questa pessima abitudine di viaggiare davanti peraltro anche a tutti i passeggeri, gli avventori del mezzo, con il telefono acceso, ma se fosse acceso solamente non sarebbe granché, ma di giocarci, giocherellarci, rispondere alle telefonate. Qualcuno anche con due telefoni, quindi una mano per telefono sostanzialmente, e poi sono cose che hanno fatto anche il giro del mondo, anche quotidiani internazionali hanno apostrofato l'Italia con i soliti epiteti, devo dire la verità, proprio per colpa di qualche sciagurato autista che ha fatto quelle cose che abbiamo potuto tutti quanti vedere sul web. Proprio per questo è stata, diciamo, il Parlamento un po' alla chetichella, devo dire, ma con una rapidità insospettabile, ha approvato un mini disegno di legge che abolisce l'esenzione, perché diciamo la cosa più grave di tutte in queste fattispecie era che poi, andando a vedere il codice della strada, si scopriva che non si poteva neanche multare questi autisti in quanto facevano parte delle categorie esentate dal divieto di tenere in mano il cellulare. Adesso questo divieto è stato, adesso questa esenzione è stata abolita, e quindi meno male, insomma. Tra l'altro Maurizio mi diceva prima a microfoni spenti, non sono stati neanche tanto furbi da enfatizzare questa novità che è stata introdotta, forse perché non volevano mettere l'accento sulla lacuna che c'era prima, cioè della possibilità che a loro venisse data la facoltà, appunto, di camminare tranquillamente, viaggiare tranquillamente, sì, col telefono. Sì, perché in pratica il codice della strada è stato scritto esattamente 20 anni fa, all'epoca non c'erano gli auricolari, non c'erano via voce, non c'era nulla, insomma. Benissimo. Comandante Scotti, tra le novità mi focalizzo un attimo sul pezzo che lei ha scritto questa mattina sulla guida dedicata appunto al codice della strada. Negli ultimi anni, lei ricorda, più riprese anche con insistenza in certe circostanze, si è sentito parlare della necessità di prevedere una nuova figura di reato, una nuova fattispecie di reato, l'omicidio stradale. Ci sono delle novità da raccontare relativamente alle recenti misure? Non chiedo naturalmente sul decreto semplificazioni, perché mi sembrerebbe abbastanza strano che una fattispecie di reato nuova venisse introdotta con un decreto legge, però ci sono delle novità da questo punto di vista, perché è così importante appunto che venga introdotta questa nuova figura di reato? Dunque sì, direi che novità ce ne sono, c'è innanzitutto un grande dibattito, ci sono fermi dei disegni di legge in Parlamento, addirittura con una certa enfasi sono stati riportati da alcuni quotidiani, e il ragionamento è quello di focalizzare proprio l'omicidio su quelle fattispecie dove è evidente che mettersi al volante vuol dire non solo avere una certa dose di incoscienza, ma anche pensare, o comunque dover pensare, di poter causare dei sinistri stradali gravissimi. Sto pensando a coloro che purtroppo si mettono alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, oppure in situazione di ebbrezza alcolica profonda, cioè quindi con assolutamente tutte le possibilità di previsione di un incidente, tempi di reazioni assolutamente inadeguate all'attualità del traffico. Bisogna anche dire che la giurisprudenza ultimamente ha preso estrema coscienza di queste situazioni e ha cominciato ad applicare non più in alcuni casi la fattispecie di omicidio colposo, ma addirittura di omicidio volontario. Comunque, insomma, su questo tema, da quello che capisco, la legislazione è ancora un work in progress. Andiamo invece alle novità già operative, quindi diamo il battesimo dell'etere al dottor Ferdinando Longobardo, commissario capo della Polizia Locale di Milano. Quali novità sul bollino blu, commissario? Ma il Mulino Blu è stato interessato di un provvedimento che ne ha semplificato un po' il suo iter, nel senso che mentre in precedenza la normativa prevedeva che il controllo del gas di scarico fosse annuale, il decreto di semplificazione appunto ha stabilito che questo controllo fosse biennale. C'è da logicamente raccordarsi con la disciplina pregressa e soprattutto con quella che riguardava la cosiddetta revisione del veicolo, perché in buona sostanza il controllo del gas di scarico viene a coincidere con il controllo di revisione del veicolo stesso, e questo effettivamente dà un elemento di semplificazione a tutta la procedura di controllo. Anche un pochino di risparmio per le tasche di chi fa questo tipo di intervento, immagino. Sicuramente sì, indubbiamente c'è un risparmio economico, perché sottoporre il proprio veicolo al controllo diciamo annuale creava qualche disagio in più dal punto di vista economico. C'è da dire poi che c'è un altro interesse, come dire, che viene dalla partita, che è quello della tutela della salubrità dell'ambiente in cui la viviamo. Certamente. E qui si apre tutta un'altra partita. Ma noi dobbiamo monitorare gli aspetti economici, soprattutto delle questioni che affrontiamo. Volevo ricordare che la sanzione per chi non ottempera al controllo dei gas di scarico è di 80 euro. Maurizio, volevi aggiungere qualcosa su questo tema? Una cosa che ha scritto proprio Ferdinando Longobardo, giustamente, cioè la formulazione di questa semplificazione in realtà è piuttosto vaga, per cui non si capisce bene come si vada a interfacciare questa semplificazione con le leggi di alcune regioni che invece il Bonino Blu lo hanno imposto, e poi bisognerà vedere se i comuni che a loro volta hanno imposto il Bonino Blu revocheranno le ordinanze con le quali lo imponevano. Quindi è un problema di coordinamento con tutti gli altri livelli di normativa, per cui io obiettivamente, come scrive anche proprio Ferdinando Longobardo giustamente, non sarei poi così sicuro che si vada a regime. Teniamo conto che già all'inizio del Bonino Blu nel 98, poco dopo diciamo, fu emanata una direttiva ministeriale, poco dopo il Comune di Roma la disattese clamorosamente, quindi insomma abbiamo già visto abbastanza su questa materia. Allora, io invece devo fare già la prima pausa, ma forse ce la faccio a sentire i primi due ascoltatori di oggi, perché visto che hanno lo stesso argomento li sentirei immediatamente. Cominciamo con Roberto da Milano. Roberto, buongiorno. Sì, buongiorno signorina. Allora, senta, io volevo dire questo. Io l'anno 21 compierò 79 anni e devo rinnovare la patente. Ho una patente B, che prima avevo la D, ed è stata trasformata così. Volevo sapere che novità ci sono sia per gli esami e i test, perché io l'ho sempre fatto alla motorizzazione delle ferrovie, e i test che mi hanno fatto fare, la visita eccetera, sono sempre andati bene. C'è qualche novità? Roberto, glielo racconteremo tra poco. Maria Giuseppa da Roma, buongiorno. Credo che lei sia nella stessa condizione del no, suo... No. Io sto peggio. Ah. Io gli anni li ho compiuti, 80 anni, e sto rinnovando la patente. C'ho il 5 marzo l'appuntamento. Io ho fatto tutto, sto nella zona Tiburtina di Roma. Preciso la zona perché le ASL fanno cose diverse l'una dall'altra, non sono tutte uguali. Allora, e quella a cui si rivolge lei è particolarmente severa, Maria Giuseppe, un po' più elastica. Intanto sono più cari, perché pensi che il costo del rinnovo della patente, io che sono esente dal ticket, mi costerà 250 euro. Ah, però, la faccia! Ecco, perché le preciso perché non dicano poi che mi invento le cose. 18 e tante si pagano al momento in cui prendono l'appuntamento per la a parte i tempi assurdi. Io io ho compiuto gli anni il 2 ottobre, c'ho l'appuntamento con la commissione il 5 marzo e l'appuntamento col geriatra il 16 marzo, quindi non le dico i giri che ho fatto. Cioè, prima di aprile, prima di Pasqua non rivede la patente. È un giro infernale, ecco. E poi le tre visite da circa 50 euro ciascuna, più la marca di 15 euro circa, perché 14,62 per le... che non dicano che mi invento le cose. No, ma Maria Giuseppa, si figura, ecco, sentiamo io talmente... Volevo dire, siccome ho sentito qualcosa che c'è di nuovo, ho provato pure su internet, ma non ho trovato delucidazioni, ecco, se mi possono dire che cosa cambia, se per me che sto ancora... che sto già facendo la cosa, c'è qualcosa che cambia. Per esempio, io il 5 ho l'appuntamento con la commissione, ma non ho ancora l'esito della visita del geriatra. Certo, quindi se la cosa avrebbe dovuto essere contestuale o meno, se va bene appunto questa sequenza di appuntamenti. Eccoci ritrovati a Salvadanaio. Salvadanaio ha questa buona abitudine il lunedì, ma ce l'ha anche in altri giorni della settimana, per la verità, di andare a rubacchiare quanto pubblica il Sole 24 Ore. Oggi c'è una guida a 360 gradi sulle novità arrivate con le recenti misure sulle semplificazioni sul codice della strada, e hanno già non tantissime novità, ma di impatto abbastanza rilevante tra i conducenti di auto, appunto, fra le persone che ci ascoltano, fra i nostri automobilisti. Allora, due domande simili ma non uguali ce l'hanno posta appunto due ascoltatori in precedenza, e ci hanno chiesto un 79enne e una 80enne che novità sono arrivate per loro per quello che riguarda il rinnovo della patente. Allora, lo spartiacque anagrafico è fondamentale, perché per chi ha compiuto gli 80 anni appunto un po' di cose sono cambiate. Maurizio Caprino, ti chiedo subito appunto per il primo ascoltatore che invece compirà 79 anni l'anno prossimo, che cosa deve fare per rinnovare appunto la sua autorizzazione alla guida. Allora, lui avendo 79 anni deve uniformarsi alle regole previste, che non sono cambiate per gli ultra settantenni, che quindi prevedono di andare dal medico normale, cioè quelli da cui si è sempre rinnovata la patente, quindi sono quelli delle ASL, quindi che operano presso le ASL, tutt'altra cosa rispetto al medico di base, non confondiamo. Poi quelli militari, che non di norma usano, operano presso le autoscuole, oppure quelli delle ferrovie, o quelli appartenenti al Ministero dell'Interno, dipendenti dal Ministero dell'Interno. Nel caso appunto di questo 79enne, però, lui non otterrà il rinnovo pieno per 3 anni come spetterebbe a tutti gli ultra settantenni, perché lui scavalla. Perché lui scavalla, quindi otterrà il rinnovo fino al compimento dell'82esimo compleanno. Quindi, diciamo, al momento non ha ancora esami aggiuntivi, test aggiuntivi da fare, tutto come in precedenza. Per quello che riguarda invece la nostra Maria Giuseppa, che si è lamentata di un bel po' di cose, intanto delle lungaggini, vive a Roma, chiaramente non vive a Casal Pusterlengo, probabilmente anche il fatto di vivere in capitale allunga i termini degli appuntamenti, i costi enormi per rinnovare la patente, ma soprattutto appunto lei temeva questa concomitanza, vicinanza di due visite. La prima non mi ricordo quale fosse, mi ricordo che quella di fine marzo è quella del geriatra. Sì, tutto questo deriva dal fatto che con la riforma del codice della strada nell'estate del 2010 è stato previsto che non solo la scadenza per gli ultra ottantenni, la scadenza della patente arrivasse dopo 2 anni anziché 3, quindi venisse accorciata, ma soprattutto si dovesse passare dalla commissione medica locale, che quindi impone tutti questi giri e queste spese che diceva la signora. Ora, col decreto semplificazioni ci si è accorti che questa cosa era insostenibile, e quindi col decreto semplificazioni si è mantenuta la scadenza biennale, però sono stati esentati gli ultraottantenni dall'andare in commissione medica locale, quindi possono rivolgersi ai medici, quelli semplici di cui dicevamo prima, quindi quello della ASL e quelli militari in buona sostanza. Il problema adesso qual è? Che la signora ha già in corso un iter in commissione medica locale. Io prudenzialmente le consiglio di non abbandonarlo questo iter, perché ovviamente il decreto è già in vigore, però è un decreto che è in corso di conversione, quindi possono esserci delle modifiche, oppure addirittura il decreto potrebbe decadere, e inoltre la motorizzazione non ha ancora disciplinato questi casi, cioè per esempio se gli interessati hanno diritto al rimborso degli oneri che hanno già sostenuto per stare in commissione medica locale. Quindi io consiglio alla signora di proseguire con questo iter e speriamo che nel frattempo la motorizzazione dia dettagli delle disposizioni, e speriamo soprattutto che il decreto semplificazioni venga convertito in legge definitivamente nella veste in cui è attualmente in vigore. Tra l'altro stavo considerando che l'ascoltatrice ci ha raccontato che ha compiuto gli 80 anni ad ottobre, ma non era lo stesso periodo in cui è scaduta praticamente la patente. Mi chiedo allora quale sia il principio che vale. Bisogna muoversi in anticipo sulla base dell'età di quando si compiono gli anni o di quando quando scade la patente? No, ci si deve muovere in anticipo sulla base della scadenza della patente, perché se si va oltre la scadenza della patente poi non si può più guidare. L'età non c'entra, perché uno può aver conseguito la patente normalmente consegue la patente in periodo diverso. Adesso è interessante che un altro aspetto del DL semplificazione, del decreto legge semplificazione, riguarda proprio l'allineamento di queste date. Io lo vedo particolarmente difficile, ma se vuoi poi ci torniamo dopo, perché c'è anche una mail di un ascoltatore che si chiama Felice, che ci ha scritto: compio gli anni 8 mesi dopo la scadenza della patente, devo rinnovarla al compimento dei miei anni o alla scadenza della patente? Poi ne parleremo. Adesso invece ritorniamo ad altri aspetti delle novità recenti, così per continuare a coinvolgere anche i nostri altri due ospiti, Silvio Scotti e Ferdinando Longobardo. Allora, abbiamo una domanda per il comandante Scotti, che la faccio porre da Vittorio da Genova. Vittorio, buongiorno. Pronto, buongiorno. Volevo chiedere un'informazione. Il nuovo codice prevede che a 17 anni si possa guidare già col foglio rosa, purché uno abbia già preso la patente della moto. Però siccome io non voglio che mio figlio prenda la patente della moto, come possiamo fare? Voglio che guidi la moto. E poi un'altra cosa, questo è anche per il figlio precedente, aveva avuto lo stesso problema, cioè lui aveva un quadriciclo pesante di quelli che si guidano a 14 anni, ha dovuto sempre prendere il foglio rosa e guidare senza patente. Allora, intanto fare una bella chiacchierata con questi ragazzi e far capire loro che questi genitori sono un po' intimoriti dall'eventualità, appunto, che guidino dei mezzi pericolosi. Detto questo, allora sentiamo un po' se la legislazione, Vittorio, non credo che le venga in aiuto, perché anzi apre un'opportunità in più per questi ragazzi. Comandante Scotti, ci aiuta allora al volante anche a 17 anni, anche questo è un pezzo che è stato curato da lei per la guida di questa mattina, al via la guida accompagnata, ma la procedura da rispettare è complessa. Come rispondiamo a questo genitore un po' intimorito? Purtroppo in maniera negativa, nel senso che la normativa si rivolge esclusivamente a quei 17enni che sono già titolari di patente di guida, quindi patente di categoria A, ovviamente, perché non possono essere titolari di altra patente. Questa è la popolazione che potrà accedere alla guida accompagnata, la cui procedura, abbiamo visto, è piuttosto complessa, perché innanzitutto non è che si acquisisce immediatamente il foglio rosa e poi si può accedere alla guida accompagnata, ma è necessario prima di tutto fare una domanda alla motorizzazione, facendo anche dei versamenti, e ovviamente la domanda deve essere presentata dal padre o dalla madre, o comunque da un genitore o da chi ne fa le veci. E a seguito della presentazione di questa domanda e dopo gli opportuni controlli sulla patente, cioè sul fatto che la patente esista e non sia stata sospesa o revocata, si ottiene una ricevuta con la quale ci si può iscrivere alla scuola guida. Si segue un programma particolare, al termine di questo programma è possibile tornare dalla motorizzazione e richiedere l'autorizzazione, che verrà rilasciata, e con quella si potrà cominciare a guidare con di fianco un accompagnatore che dovrà essere sempre lo stesso, munito di patente, e nessun altro potrà salire sul veicolo. Ammettendo che tutto fili liscio, comandante Scotti, quanto dura tutto questo procedimento in media? Quanto potrà durare? Io credo che ci vorrà qualche settimana soltanto per presentare la domanda e ottenere l'autorizzazione e frequentare il corso per la scuola guida. Successivamente non abbiamo ancora delle tempistiche certe, perché ovviamente la motorizzazione non si è ancora allineata, non abbiamo delle tempistiche certe, però è chiaro che possiamo dire che il 17enne potrà fruire di questa possibilità per un massimo di 9-10 mesi. Ecco, infatti mi chiedo che cosa sia servito attivare questa procedura se poi si arriva a ridosso dei 18 anni, insomma, guadagnare pochi mesi per fare un po' di pratica con la guida, con un genitore, insomma, proprio per togliersi lo sfizio. Non lo so, comandante, me lo dica un po' lei, che conosce questo mondo molto meglio di me. Allora, la mia sensazione è che l'incidenza sarà piuttosto bassa, anche perché tutta questa procedura ha un costo e non siamo senza dubbio in un momento economico favorevole. E poi, appunto, come lei ha appena giustamente sottolineato, si guadagnano pochi mesi, quando invece è possibile aspettare i 18 anni e frequentare un corso di guida regolare. Diciamo che magari potrebbe essere favorevole in quei casi in cui il minore ha particolare fretta, perché ha necessità della patente di categoria B, magari per accedere a qualche professione particolare. Certo, quindi magari a 18 anni si trova pronto, quantomeno con i primi rudimenti della guida, ma capire, i nostri ragazzi sanno già guidare molto prima, altro che. Allora, io mi fermo perché adesso abbiamo una nuova... No, però Lorenzo da Rimini gliela faccio fare, questa è una domanda che poi girerò a Ferdinando Longobardo. Lorenzo, buongiorno, vi ricordo ancora 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi. Lorenzo, buongiorno. Buongiorno a lei. La mia richiesta era questa: noi abbiamo la revisione auto biennale e il pagamento del bollino blu per la cosa ecologica ogni anno. Mm-hmm. La differenza che ci sta nel prezzo invece è di 10 volte tanto, perché se io spendo 2 euro di bollino nella revisione, quando faccio il bollino blu annuale mi costa 20. Mm. Perché non uniformare il bollino con le scadenze di revisione? Questo proprio perché c'è questa disomogeneità territoriale, intanto forse da altre parti funziona in maniera diversa. Allora, Ferdinando Longobardo, commissario capo della Polizia Locale di Milano, ha sentito il racconto della situazione del nostro ascoltatore da Rimini, di Lorenzo. Ma in realtà il decreto semplificazioni va proprio a dare una risposta chiara al nostro Lorenzo, perché dice chiaramente che il controllo dall'anno del 2012, il controllo obbligatorio dei dispositivi di combustione e di scarico è effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria periodica del mezzo. Diciamo che si coniugano i due controlli in un unico controllo. A questo punto non dovrebbe più avere il doppio esborso economico. Sì, diciamo che io immagino che la revisione costerà un po' di più rispetto a... Magari ottimizziamo un po' i tempi, no? Non facciamo due cose in due momenti separati, facciamo tutto in una volta, però... Ma in realtà, per quello che mi consta, attualmente la revisione, cioè l'esame di revisione del veicolo, già prevede anche il controllo dei gas. Ah, ecco, quindi... Quindi assolutamente, da questo punto di vista, è un risparmio economico. Benissimo. Però poi bisogna vedere le varie realtà, come diceva giustamente il dottor Capino, a volte ci sono realtà anche differenti. Maurizio, volevi aggiungere qualcosa? Sì, infatti, diciamo, l'intento del legislatore è stato proprio questo, di assorbire con il bollino blu nei normali controlli della revisione. Poi bisogna vedere cosa succede, ma assolutamente l'onere dovrebbe essere abolito, secondo quello che vuole il legislatore. Allora, su Facebook ci scrive Andrea e ci chiede che cosa cambierà riguardo la patente necessaria per la guida di una microcar. Comandante Scotti. In realtà, da questo punto di vista, non ci sono novità, perché in realtà la microcar è considerata, anche se tecnicamente è diversa, come un ciclomotore, no? Quindi potrà continuare ad essere guidata alle condizioni attuali, quindi il cosiddetto patentino abiliterà la conduzione della microcar. C'è un tema, sì, Maurizio. Tutto questo rimane vero ancora per un anno, perché poi il 19 gennaio 2013 il patentino diventerà a sua volta patente AM con il recepimento delle nuove direttive europee. Questa è una cosa futuribile, diciamo, però è stata già fissata e resteranno validi i patentini già rilasciati. Che caratteristica ha questa patente AM? Ma in buona sostanza sarà una patente come tutte le altre, quindi sarà soggetta, per esempio, agli stessi requisiti fisici che occorre avere per la patente. Occorrerà fare un esame uguale a quello per la patente e diciamo, per i maggiorenni sarà soggetta a tutti i regimi, tipo anche la patente a punti, insomma, quindi anche a tutti i regimi sanzionatori. Per i minorenni si apre un discorso più delicato, perché le sanzioni accessorie non possono essere applicate ai minorenni, neanche a quelli patentati, ma è stato trovato un metodo alternativo. Saranno sottoposti a revisione della patente, dovranno rifare gli esami, se commetteranno infrazioni da sospensione o da altra sanzione accessoria. Dobbiamo affrontare anche il tema del nuovo sistema di targatura e ricordarlo soprattutto a chi ha un motorino in garage e lo usa saltuariamente. Appunto, dovrà adesso procedere a cambiare la targa prima di poter circolare. Però ritorniamo alle auto da revisionare e al bollino blu con Mario da Carpi. Buongiorno Mario, un revisionatore vedo. Sì, buongiorno. Allora, la turbano un po' queste novità? No, anzi, mi rendono molto felice, perché purtroppo da 4 anni faccio le revisioni e ho constatato che il bollino blu è un modo per chiedere una tassa, perché i parametri di riscontro dei gas di scarico sono talmente laschi, sono talmente larghi che passano quasi tutte le macchine, perciò diventa inopportuno farli, perché non servono a niente, perché non blocca nessuna macchina, tranne magari la vecchia 500 o la 131, ecco. Vabbè, insomma, quindi questa razionalizzazione le piace o no? Sì, anzi, levare il bollino blu è sembra una cosa logica, perché ogni anno una macchina viene, se lei pensa, io faccio anche officina e ogni 15.000 chilometri, ogni 10.000 chilometri una macchina fa il tagliando dal meccanico, basterebbe che si sensibilizzassero i meccanici a dire la macchina è idonea o non è idonea, senza far pagare 65 euro a una persona ogni anno per saperlo, perché comunque sia la macchina va dal meccanico, i centri di revisioni sono quasi sempre collegati a un'officina. Mario, quanto costa una revisione mediamente? Chiaramente poi lì dipende dalle problematiche, ammettendo che la macchina sia nuova e non abbia bisogno di nessun tipo di intervento, proprio la procedura della revisione. La procedura della revisione costa nella nostra zona sui 65 euro. Maurizio, dappertutto è una tariffa ministeriale, poi oddio, ci sono delle stranezze anche locali, però la tariffa obbligatoria è quella che è fissata dal Ministero, senza sconti né aggravi. Ecco, poi chiaramente se durante la revisione la macchina si trova con qualche problema, quello è tutto un discorso a parte. Grazie Mario per il suo contributo, grazie molte. Allora, spiegaci un po' questa cosa delle targature dei motorini, se ce ne abbiamo qualcuno lì fermo in garage, adesso quest'estate ci prende il vezzo di voler farci un giro. Dobbiamo ricordarci che dal 14 febbraio scorso invece avremmo dovuto ritargarlo, quindi attribuirgli una targa specifica al posto del targhino che potevamo portarci su qualsiasi motorino guidassimo, anche non nostro. Quindi occorre abbinare ciascun motorino a una targa e a una sua carta di circolazione, come se fosse una carta di circolazione di un'auto, quindi appunto anche con il nostro nome segnato sopra. Ora, chi non lo ha ancora fatto non può circolare, però se appunto, come dicevi tu giustamente, abbiamo il motorino in garage o nella casa al mare eccetera eccetera, basta semplicemente ricordarsi di effettuare questa operazione di ritargatura prima di rimetterlo in circolazione, perché non è previsto alcun tipo di aggravio per chi provvede in ritardo. Maurizio, sai che ci sono tanti camionisti che ci ascoltano e quindi dobbiamo accontentare, perché qualcuno ci ha scritto anche delle domande. Potete dire i tempi di riposo e guida dei camionisti? Grazie. Ci sono delle novità, perché c'è qualche novità sullo stop ai tir, c'è un cambio di calendario. Vado con il comandante Scotti. Comandante. Dunque, diciamo che allora spiegare adesso i tempi di riposo è piuttosto lungo, perché in realtà esiste una normativa molto complessa che è stata rivista più volte, non siamo all'attualità, non ci sono state delle modifiche per quanto riguarda i tempi di riposo, però è stata oggetta di diversi cambiamenti, l'ultimo proprio nel 2010. Mi rendo disponibile a fronte di una mail, oppure di spiegare punto per punto tutti, a seconda dei casi e anche dei tempi di guida, quali sono le norme da rispettare. Diciamo che la cosa fondamentale è che è stato abolito il divieto di circolazione nei giorni precedenti successivi ai festivi. No, Maurizio, non sì, è così. No, sono due cose diverse. Diciamo, la domanda conteneva aveva un doppio contenuto. Un conto sono i tempi di riposo e guida del singolo autista. Altro conto è quando il camion può circolare anche con un altro autista. Si possono avere equipaggi anche doppi. Quindi le novità che sono intervenute adesso nell'ambito appunto degli ultimi decreti approvati nelle settimane scorse riguardano appunto il calendario di circolazione dei mezzi pesanti. Finora la normativa prevedeva che si bloccassero nei giorni festivi e nei giorni a ridosso di questi giorni festivi. Si è ritenuto che questa normativa fosse rigida, per cui si è detto che si può sbloccare la circolazione in giorni a ridosso delle festività, poi magari riservandosi invece di bloccarla in altri giorni particolari della settimana, diciamo in considerazione di varie esigenze sia di traffico sia di economia legate all'economia nazionale. Insomma, mi sembra che scandagliandola tutta abbiamo toccato quasi tutti i punti della guida di questa mattina. Per tutto quello appunto che vi serve ancora da sapere, potete prendervi la guida in edicola stamattina con il Sole 24 Ore, animare anche il forum online che il Sole ha organizzato. Vi do un indirizzo: www.ilsole24ore.com/codicestrada, e quindi potete andare a trovare lì tutte le informazioni che sicuramente questa mattina non siamo riusciti a dare, perché il tema è molto molto vasto. Grazie a Maurizio Caprino, a presto Maurizio. A presto. Grazie a Silvio Scotti e Ferdinando Longobardo per essere stati con noi. Salva Danaio torna domani, buona giornata.